Italia in controluce. Sono le piccole storie che fanno la storia, quella con la S maiuscola. Farle emergere e narrarle tutti i giorni in due edizioni è il compito di Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesse. I veleni del crimine è l'ultimo libro dello scrittore e giallista Carlo Lucarelli. Racconta le storie italiane, le stragi, gli omicidi di mafia, quelli di terrorismo, i depistaggi dei servizi segreti, i disastri ambientali. Insomma, l'apertura degli armadi. Floriana Liuni ha intervistato Carlo Lucarelli. Nel suo libro I veleni del crimine, lei racconta le stragi naziste, Tangentopoli, le morti per amianto, e le definisce la storia di un armadio chiuso con dentro dei segreti inconfessabili che hanno inquinato il paese moralmente e fisicamente. Perché questo armadio è rimasto chiuso e chi ha voluto che lo fosse? È rimasto chiuso perché ci sono stati tanti interessi che hanno fatto in modo che così rimanesse. Mi sembra che ci sia stato un gruppo di persone che avrebbe voluto che le cose fossero andate diversamente. E visto che questa cosa non si poteva fare, hanno cercato di gestirla con altri metodi che sono il terrorismo, a volte le stragi, i ricatti, i dossier, eccetera, eccetera. Ecco, queste persone hanno sempre avuto interesse che l'armadio rimanesse chiuso. E perché pensa che oggi sia il momento che gli italiani guardino dentro questo armadio? Perché siamo arrivati ad un punto in cui è difficile immaginare un futuro uguale al passato. E quelli sono i momenti in cui dovremmo approfittare, noi, chiamiamoci un po' gente di buona volontà, voglio dire, chi ha a cuore la sorte di questo paese in maniera democratica e civile, sono i momenti in cui noi dovremmo approfittare per fare piazza pulita, per aprire i cassetti, per tirare fuori la verità, per fare i conti col passato e rimpostare correttamente un futuro. Come si è sentito a ricostruire questi casi che non sono fiction ma sono casi veri? Il fatto di avere a che fare con questa realtà così drammatica ma anche tra virgolette così eroica, insomma così epica come la nostra storia recente, provoca intanto una forte emozione. Sono storie che coinvolgono emotivamente più di quelle che avremmo potuto inventare. E poi anche una forte rabbia, perché ovviamente sono storie drammatiche, brutte. La strage per amianto è una cosa che ti provoca una rabbia enorme. E spero che questa cosa si porti dietro anche la voglia, da parte mia c'è sicuramente, di cambiare le cose. Il mio contributo è quello del narratore. La cosa curiosa è che tutte le cose che io racconto, per quanto possano sembrare delle scoperte, in realtà sono già tutte dette, tutte raccontate, sono tutte negli atti giudiziari, nei libri di storia o negli articoli di giornale. Non è facile raccontarlo, ce l'hanno complicato con l'armadio, ci nascondono dei momenti chiave, insomma, non è facile, però sì, in effetti sta lì e bisognerebbe soltanto aprirlo. In un'indagine riportata da Repubblica si dice che i TG italiani dedichino alla cronaca nera più di tutti gli altri TG europei. È voyeurismo e voglia di capire? Molte volte nella nostra televisione è voyeurismo. Per esempio, quando ci si chiede chi ha ucciso qualcuno, ecco, questo è un punto interrogativo ed è una risposta che magari vogliamo sapere. Ma una volta che abbiamo scoperto questo, insistere ad intervistare persone che sono stati protagoniste di questa vicenda per chiedergli tu cosa hai pensato, tu cosa hai provato, questo è voyeurismo. Ecco, quando succede questo, i nostri TG, i nostri programmi di approfondimento sicuramente sbagliano. Anche nel suo libro ci sono personaggi a cui sono state poste delle domande, Tina Anselmi per il caso P2 o anche i personaggi del pool di Mani Pulite o anche la signora Romana Pavesi, presidente dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto. Sono proprio le persone di buona volontà, sono tutte persone che hanno fatto il loro lavoro nonostante una difficoltà enorme, perché non è che è così facile nel nostro paese dire voglio verità o giustizia e ottenerla. Senza questa pressione continua e molte cose non le avremmo sapute. Lei conclude il capitolo su Tangentopoli con una domanda aperta. Dopo questa inchiesta l'Italia è cambiata? Cosa rispondiamo? No, dovremmo dire di no, visto quello che vediamo adesso. Quello probabilmente sarebbe stato un momento importante per fare una riflessione politica, no? Enorme su quella che è la politica del nostro paese, eccetera, eccetera. E che non è stato fatto naturalmente, però un po' di cose cambiano sempre, perché perlomeno cambia la consapevolezza della gente. Adesso è più difficile raccontarci delle frottole, e certo che se questa consapevolezza poi non si traduce in una vera azione politica, beh insomma siamo delle persone consapevoli ma imbrogliate. Italia in controluce. La seconda traccia ci porta in Sicilia, tra i ragazzi di Addio Pizzo, quelli che ogni giorno lavorano alla luce del sole contro le cosche mafiose. Il racconto di Monica Ceravolo. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Quella sera erano in sette, seduti attorno a un tavolo a discutere dei loro sogni. Quello che volevano era avviare un'attività tutta loro, tutti insieme, per affrancarsi, adesso che erano diventati grandi, dal ruolo di figli. Ma ogni volta che ne parlavano, il sogno andava a sbattere contro la realtà, A Palermo tutti pagano il pizzo. Se vuoi aprire un'attività, devi dare i soldi alle cosche. Era così che funzionava e loro lo sapevano, ma erano decisi a non piegarsi. Così presero una decisione che era destinata a cambiare le loro vite, anche se loro ancora non lo sapevano. Ugo Forello era uno di quei 7 ragazzi. Era precisamente la data tra il 28 e il 29 di giugno del 2004. C'era questo problema del racket, dell'estorsione, di cui nessuno parlava, ma era diffusissimo nella città di Palermo e non solo. Abbiamo deciso di fare una provocazione alla città di Palermo, cioè avevamo deciso di fare dei volantini con su scritto "un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità", una frase che voleva quindi affermare l'attenzione sul fatto che non solo i commercianti erano responsabili di questo stato delle cose, ma anche tutti i cittadini che facevano finta di niente. La mattina dopo Palermo era tappezzata di volantini "un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità". Era scritto sui muri del centro, sui pali della luce, sopra le sarcinesche. Impossibile non vederli. Scoppiò un putiferio. Chi li aveva messi quei volantini e perché? A che scopo? C'erano state delle proposte per imputarci per procurato allarme sociale, anche perché non si sapeva chi fosse stato. Io fino al 2006 ero fermamente convinto di fare il magistrato, perché era quello che ritenevo più affine alle mie capacità e anche più utile per la mia città. Invece poi mi sono approcciato all'attività di avvocato e di legale per il Comitato Addio Pizzo, non solo per il Comitato Addio Pizzo, ma anche per le tante persone offese che poi nei successivi anni abbiamo raccolto, che hanno fatto denuncia, che hanno denunciato il racket e le estorsioni, e ai quali appunto abbiamo prestato, io con altri 2 ragazzi di Addio Pizzo, nel frattempo poi diventati anch'essi avvocati, un'attività legale, professionale, che poi è diventata il mio lavoro. Così nasce Addio Pizzo. Un anno dopo la notte dei volantini, quei ragazzi raccolgono 3.500 firme di cittadini consumatori pronti ad acquistare prodotti Pizzo Free. A maggio 2006, 100 tra imprenditori e commercianti dichiarano di non pagare il pizzo alla mafia. 15 anni prima l'imprenditore Libero Grassi aveva detto le stesse cose, ma era stato ucciso perché era l'unico a farlo. Nel 2007 nasce a Palermo la prima associazione anti-racket della città, Libero Futuro, e poco dopo si costituisce parte civile al processo Gota contro le cosche, e non sarà l'ultimo. Per alcuni di quei 7 ragazzi questa battaglia per liberare la propria terra dal gioco del racket è diventata una professione che ha assunto forme diverse. Dario Riccobono ha aperto un'agenzia di viaggi, Pizzo Free, of course. Cerchiamo di adattare al settore turistico quella che è la campagna di consumo critico. Abbiamo creato Addio Pizzo Travel, che non è altro che un'associazione che si occupa di organizzare dei viaggi con 2 caratteristiche fondamentali. Una, quella di servirsi esclusivamente di fornitori Pizzo Free, quindi dare la garanzia ai nostri ospiti, ai nostri turisti, di non dare nemmeno indirettamente un euro alla mafia. Altra caratteristica del nostro viaggio, il nostro approccio, è quello di dare una lettura della Sicilia un po' diversa, guardare appunto la nostra meravigliosa terra da una prospettiva diversa e valorizzare la bellezza, e con questo intendiamo anche la bellezza dell'impegno, della partecipazione, conoscere la storia del movimento antimafia attraverso il racconto diretto dei protagonisti, di chi ha una storia di resistenza alle spalle. Il destino di quei ragazzi è cambiato a seguito di un atto di protesta, e loro da quella notte cercano di cambiare il destino di una città che sembrava condannata a pagare il pizzo per sempre. Italia in controluce. Questa è la storia di un sogno diventato realtà, il sogno di un imprenditore che voleva regalare un teatro alla sua città, Vignola, provincia di Modena, e ci è riuscito. Emilio Buttaro. Da qualche giorno Vignola, il piccolo centro del modenese noto per le ciliegie, ha il suo teatro. La struttura è costata poco più di 10 milioni di euro, tutti offerti da Ermanno Fabbri, imprenditore locale a capo di una multinazionale che a poco più di 80 anni ha così potuto realizzare un sogno, come ha detto la figlia Franca. Il suo desiderio profondo è stato di essere un attore, un regista, lo è stato sicuramente nella sua azienda, e ci fa piacere che lo rimanga per sempre in questa città. Con una capienza di 468 posti per un bacino di utenza di 150.000 persone, il teatro Ermanno Fabbri, inaugurato nei giorni scorsi, è una struttura all'avanguardia nel suo genere. Il sindaco di Vignola, Daria Denti, ha così commentato. Sì, è stato un gesto incredibile, un gesto emozionante, un gesto che noi speriamo si possa anche ripetere in futuro nel nostro, ma anche in altri territori, perché poi il mecenatismo forse in questo nostro paese ha bisogno di essere riscoperto, e per noi testimonia quanto quanto un cittadino, una famiglia, che già a Vignola è importante per la realtà occupazionale che ha fornito per anni, ha voluto regalare lasciando un segno duraturo sulla cultura. Noi siamo assolutamente convinti, così come è stato convinto Cavalier Fabbri, che se lui non avesse avuto questo incredibile amore e interesse per la cultura e le arti, non sarebbe diventato l'imprenditore che è. Ed in effetti il teatro è stato donato alla città di Vignola con una clausola: niente incontri di politica o convegni, unica destinazione la cultura. Ampio il cartellone sostenuto anche grazie alla Fondazione di Vignola, entusiasti i cittadini della zona. Va molto bene, per Vignola ci voleva, poi era un bel po' che non... prima c'era un cinema lì, adesso non c'è, cioè, hanno fatto questo teatro e speriamo che la cosa vada bene. E mi sembra una cosa molto molto interessante, molto bella. Una bella iniziativa, che ne vengano, per, secondo me per la comunità è la cosa essenziale. Una cosa bellissima, veramente, ha fatto molto molto bene. Una bella cosa quella lì, un bel lavoro. Ringraziamo il nostro signor Fabbri che ci ha dato i soldi per fare un lavoro così. Ah, io abito di fronte, sì. Ieri sono venuto con mia moglie, che sono in carrozzina, mi ha fatto vedere tutto il teatro, sono stato molto contento. Una bella cosa, secondo me, per la cultura, soprattutto per i cittadini che non avevano possibilità di andare a frequentare un teatro. E al taglio del nastro un autentico successo, ancora il primo cittadino di Vignola. Al di là del dato quantitativo, quanti hanno telefonato, quanti hanno partecipato, anche se il teatro è stato strapieno, è l'entusiasmo con cui la gente e le persone rispondono. Entusiasmo che si misura anche dalla capacità enorme delle nostre scuole, delle associazioni culturali di arrivare già con dei progetti da voler realizzare lì. Quindi penso che il teatro sia già diventato il teatro della comunità, che lo farà vivere sia da spettatore, ma immagino anche da possibile impresario di iniziative e realtà culturali e divulgative. La seconda edizione di Italia in Controluce è terminata. L'archivio delle puntate lo trovate su www.radio24.it. Per comunicare con noi tre possibilità: Radio 24, Italia in Controluce, il gruppo di Facebook, In Controluce tutto attaccato su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani 6:30 su Radio 24.